Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Abbiamo Filippa Oreggi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione e Sava Sandiri il nostro sommario. Andiamo. Primavera, una stagione difficile per gli allergici. Destro o sinistro? Dimmi da quale orecchio ascolti la musica. Alcol, parola d'ordine, moderazione. Oggi parliamo di allergie respiratorie, primavera, la stagione lo impone, ma anche i numeri, cari amici, ci invitano ad occuparci di questo problema che riguarda in media il 15% della popolazione, quindi fate conto, oltre 5 milioni di italiane, con punte del 20% negli adolescenti e nei giovani adulti. Chi non ha provato l'ebbrezza dei 50 starnuti a ripetizione fa fatica a immaginarsi il fastidio, insomma chi non la conosce pensa sia un disagio stagionale. In realtà l'allergia è una malattia che si riflette pesantemente sulla qualità di vita, si è più stanchi, si rende meno di quanto si dovrebbe, si diventa anche più irritabili. Chi vive accanto ad un allergico è pregato di intervenire. 800 24 0024, i messaggi al 349 238 6666. In studio con me il dottor Alessandro Fiocchi, pediatra, allergologo della Macedonio Melloni di Milano. Dottore, bentornato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. In linea il professor Gianni Passalacqua, ricercatore presso la Clinica di Malattie dell'Apparato Respiratorio dell'Università di Genova. Professore, bentornato anche a lei. Grazie, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori e un saluto anche a Sandro Fiocchi che è con noi quest'oggi. Quando sta per arrivare la primavera, professor Passalacqua, prima delle rondini arriva la rinite, tutti gli anni il copione si ripete. Beh sì, diciamo che la primavera è sicuramente il periodo critico dell'anno perché incominciano a comparire i pollini e quindi l'allergico è esposto a questi cosiddetti allergeni pollinici e la malattia si scatena. In realtà le cose sono un po' più articolate perché la maggior parte dei soggetti sono sensibili a diversi allergeni, non soltanto ai pollini, per esempio anche agli acari della polvere che ci sono tutto l'anno, quindi molte persone hanno un po' di sintomi magari per tutta la durata dell'anno e poi in primavera hanno il peggioramento acuto, il peggioramento importante, per cui prendono coscienza in misura maggiore della loro patologia. Dottor Fiocchi, con lei ci occuperemo dei bambini perché l'allergia non risparmia neppure loro, ma chi sono quelli che rischiano di più? I figli di genitori allergici? Sì, certamente i figli dei genitori allergici rischiano di più, ma anche rischiano di più i figli di genitori che hanno pochi bambini, specialmente gli unicogeniti, rischiano di più i figli di genitori laureati, quindi di alto livello culturale, rischiano di più i figli dei genitori di alto livello socioeconomico, rischiano di più i figli dei genitori che hanno case in città rispetto a quelli in campagna, quindi sono tanti i fattori di rischio che vanno considerati. I bambini non allattati al seno? L'allattamento al seno protegge in una qualche misura, c'è stata controversia su questo negli ultimi anni, ma oramai siamo sicuri che c'è una protezione dell'allattamento al seno che però non è così spiccata come si pensava nel passato. Lei ha già anticipato, bambini di città o quelli di campagna, dottor Fiocchi? È abbastanza paradossale che i bambini di città che sono meno esposti al polline per definizione siano quelli che in realtà vi siano più allergici. In particolare a spiegare il fenomeno ci aiutano studi anche non recenti ma non mai smentiti che vengono dal Giappone che dicono che i bambini che vivono vicino alle autostrade sono più allergici ai pollini dei bambini che vivono lontano. Quindi ancora qui un ruolo probabilmente dell'inquinamento e del traffico veicolare come cofattore della sensibilizzazione pollinica. Starnuti a ripetizione, occhi rossi e lacrimanti, naso chiuso e gocciolante, professor Passalacqua, questo è un po' l'identikit dell'allergico, ma si possono fare anche delle precisazioni, perché sul fronte clinico la tendenza è quella di suddividere i pazienti in coloro che starnutiscono molto e a cui cola spesso il naso e invece rispetto a coloro ai quali si tappa spesso il naso. È vero, professor Passalacqua? Possiamo anche noi adottare per oggi questa grande distinzione? Sì, sì, assolutamente. È una distinzione che anche se non è completamente corretto dal punto di vista della fisiopatologia e dell'immunologia, è una distinzione che comunque dal punto di vista clinico, cioè dalla pratica di tutti i giorni, è ancora valida. Sicuramente i soggetti allergici ai pollini, quelli che hanno il peggioramento grave durante la primavera, tendono ad avere molti starnuti, il naso che cola molto e molto prurito. I soggetti che sono allergici, per esempio all'acaro della polvere o al gatto, cioè ad allergeni che sono sempre presenti tutto l'anno, hanno più tendenza a starnutire meno e ad avere il naso più ostruito. Ripeto, questa classificazione... Un po' grossolana, ma ci aiuta. Aiuta i nostri ascoltatori da casa a intervenire chiamando il nostro numero verde 824 0024 e aggiungere questo dettaglio che può fare la differenza, come lei ci ha spiegato, professore. Sì, sì, assolutamente, questa, ripeto, è una classificazione che dal punto di vista clinico vale ancora, anche se in questi ultimi anni abbiamo dato dei nomi nuovi a queste manifestazioni cliniche. Adesso distinguiamo la rinite, cioè il raffreddore allergico, in persistente e intermittente, a seconda di quanto dura durante l'arco dell'anno e anche durante l'arco della settimana. Questa è una classificazione intermittente e persistente che si adatta molto meglio a quelli che sono i meccanismi che sostengono l'allergia. Però, ripeto, dal punto di vista proprio strettamente pratico, gli starnutatori e quelli che invece hanno il naso chiuso è una distinzione che rimane ancora valida. Ecco. Dottor Fiocchi, che possiamo utilizzare anche per i bambini, quindi alle mamme all'ascolto possiamo dire: diteci come si comporta il naso del vostro bambino, se si tappa o se cola. Assolutamente, anche nei bambini, i bambini, quelli che sono allergici ad altri allergeni oltre ai pollini, sono quelli che più facilmente hanno il naso bloccato, e per loro ci sono dei sintomi abbastanza caratteristici che possono aiutare le mamme all'ascolto a riconoscerli, che non sono tanto ovvi. Per esempio la respirazione con la bocca di notte, questo è ovvio, se è un bambino russa questo è chiaramente un bambino col naso bloccato, ma lo può essere anche il bambino, per esempio, che ha le occhiaie, oppure il bambino che ha l'alito cattivo al mattino. Anche questi sono sintomi di ostruzione. Negli ultimi anni si tende a porre molta attenzione alla cronobiologia della rinite per capire un po' l'incidenza dei sintomi nei vari momenti della giornata. Approfondiremo anche questo aspetto. Voi intanto diteci qual è l'ora più critica per voi e quella per il vostro bambino. 824 0024, il professor Passalacqua e il dottor Fiocchi rimangono a nostra disposizione. Una mela al giorno. Bisogna avere orecchio. Bisogna avere il pacco. Immerso, immerso dentro il secchio. Bisogna averlo tutto. Anzi parecchio. E per fare certe cose. Enzo Iannacci a dire che ci vuole orecchio, ma non ci dice quale, destro o sinistro. Se il grande Enzo volesse riscrivere il testo oggi alla luce di nuove ricerche, forse darebbe qualche dettaglio in più. Nell'ascolto, infatti, anche se non ce ne accorgiamo, privilegiamo un orecchio. Ci facciamo raccontare tutto dalla dottoressa Erika Sibillo, medico esperto di musicoterapia, che è tornata a trovarci. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Eh sì, infatti è la domanda, la musica intanto scelta in maniera magnifica. Chiediamo ai radioascoltatori se hanno mai fatto caso a quale orecchio usano quando ascoltano la musica, o più semplicemente il telefono, la cornetta del telefono, dove la tenete, a destra o a sinistra? Beh, io rispondo che la tengo a sinistra, ma io ho la deformazione professionale perché sono anche musicista, ma andiamo agli studi e vediamo che cosa ci raccontano. Parte lo studio dall'Università di Los Angeles, i ricercatori americani hanno voluto verificare come le nostre orecchie reagiscono ai suoni e sono partiti per questo loro studio da un gruppo di oltre 3.000 neonati ai quali hanno fatto ascoltare due tipi di emissione sonore, i click rapidi e i toni musicali. Poi hanno usato le loro tecniche particolari, una in particolare denominata emissione otoacustica. Cosa vuol dire? Si fa arrivare un suono all'orecchio, l'orecchio amplifica le vibrazioni del suono che riceve e le riemette verso l'esterno. Queste vibrazioni riemesse così dall'orecchio vengono misurate con uno speciale microfono. Allora, cosa hanno scoperto dopo tutte queste tecniche, eccetera? Ecco, hanno scoperto che l'orecchio sinistro è più attento ai toni musicali, ovvero alla musica, mentre quello destro ai click che noi traduciamo nel linguaggio. E questo risultato conferma anche quello che era già stato studiato rispetto alla diversa percezione della musica che ha il nostro emisfero cerebrale destro rispetto a quello sinistro. Due parole velocissime sugli emisferi. Vi ricordate? L'emisfero cerebrale sinistro, che è collegato all'orecchio destro, è quello che va a decifrare il linguaggio, mentre l'emisfero cerebrale destro, collegato all'orecchio sinistro, è quello che si occupa di elaborare la musica. Quindi, per farla in breve, in base a quello studiato sulle nostre orecchie, se durante una conversazione o una riunione o sul posto di lavoro o a scuola per i nostri bambini teniamo chi ci parla alla nostra destra, miglioreremo la comprensione del linguaggio, di capire ciò che ci viene detto. Mentre se vogliamo godere appieno dei benefici che ci porta una buona musica per rilassarci, per rigenerarci, metteremo lo stereo alla nostra sinistra. Ma oggi voglio andare oltre, voglio lasciare i nostri radioascoltatori con un piccolo antico indovinello che a me piace moltissimo e ve lo propongo. Siete pronti? Sì. Allora. Anche il dottor Fiocchi. Lo vedo molto, molto attento. Allora, via con l'indovinello. Pronti via. Allora, cos'è che arriva in carrozza? Se ne va in carrozza. Non è di alcuna utilità alla carrozza, ma la carrozza non può muoversi senza. Dottor Fiocchi? Ah, non ho assolutamente idea. Allora, chi di voi per primo manderà la risposta giusta a questo indovinello alla mail esserebenessere@radio24.it riceverà a casa il libro del nostro consiglio di lettura di oggi. Naturalmente, nel corso della trasmissione chiameremo la dottoressa Sibillo per svelarci il risultato di questo indovinello. Dottoressa Sibillo, grazie. Grazie, un piccolo aiuto ai radioascoltatori. Provate a chiederlo al vostro orecchio sinistro, vi darà lui stesso la risposta. A più tardi. Questo è l'aiutino. Grazie, dottoressa Sibilla, tra poco. A voi, buongiorno. Pronto soccorso. E noi torniamo, scendiamo da questa carrozza, torniamo a parlare di rinite allergica, una patologia che sappiamo colpisce i bambini e anche gli adulti. Per questo noi oggi abbiamo due esperti, il professor Gianni Passalacqua che si occuperà degli adulti, mentre il dottor Alessandro Fiocchi si occuperà dei nostri bambini. Professor Passalacqua, però è un dato che ormai tutti conosciamo, anche chi non è allergico: i casi di allergia aumentano, è colpa dell'ambiente, dello stile di vita, di quello che mangiamo. Cosa può spiegare questi numeri? Il clima che è cambiato, le stagioni che non sono più quelle di una volta? Guardi, sì, in realtà io dico sempre, per riassumere quello che succede, è che stavamo meglio quando stavamo peggio. Peggio. Nel senso che sembra, da numerosi studi epidemiologici fatti anche su larga scala, sembra proprio che l'aumento costante delle allergie sia un prezzo che noi paghiamo al benessere, nel senso che mangiamo cibi sterili, beviamo latte sterile, abbiamo i bambini vaccinati, quindi fanno meno infezioni, tutti facciamo meno infezioni, e quindi il nostro sistema immunitario si trova in un certo senso disoccupato, sì. Ha meno da fare per controbattere le infezioni o le altre aggressioni, e quindi lentamente si sbilancia verso la reazione allergica. Questo fenomeno è conosciuto come ipotesi dell'igiene e dice sostanzialmente che il miglioramento delle condizioni di vita, il miglioramento dell'igiene è in parte responsabile dell'aumento delle allergie. Lo si è visto. Questo non vuol dire però che a non lavarsi si guarisce dall'allergia, o no? No. Perché se no. Assolutamente, io dico sempre di non portare all'estremo queste considerazioni che spiegano un fenomeno, ma non ci dicono che non bisogna vaccinare o che non bisogna mantenere l'igiene, assolutamente no. I vantaggi delle vaccinazioni, i vantaggi del miglioramento della qualità di vita sono infinitamente superiori agli svantaggi che ci portano, sì. Uno dei quali è l'aumento delle allergie. Dottor Fiocchi, già quattro messaggi evidentemente di mamme, perché sono firmate da donne, ci chiedono di ripetere i sintomi, quelli non così immediati, che aiutano alle mamme, i genitori a pensare: ma sarà mica allergico questo bambino che fa fatica a respirare, dorme di notte con la bocca aperta e russa, ma lei ha aggiunto anche le occhiaie. anche per esempio l'alito cattivo, ma ancora quello che si chiama il saluto allergico, cioè un'abitudine che tanti genitori prendono per un tic dei bambini o per un viziaccio, di toccarsi il naso dal basso in alto col palmo della manina. Questo è il saluto allergico. Altri lo fanno per esempio da destra a sinistra, con un gesto che viene interpretato come maleducato, ma che esprime solo l'esigenza del bambino di grattare il nasino quando ha un prurito che gli risulta tormentoso. Altri ancora esprimono l'allergia con il sangue da naso. Quando un bambino ha sangue da naso è il caso di pensare a un'allergia. A questo proposito, in 30 secondi le cito il caso che abbiamo visto e risolto quest'anno, sì, di una bambina di 11 anni che era stata allontanata dal corpo di ballo della Scala perché durante i volteggi aveva epistassi e questo, sì, non era compatibile naturalmente con, sì, il volgere dello spettacolo e con la tenuta del palco della Scala, che ha risolto il suo problema scoprendo di essere allergica e trattando la rinite allergica. Ha capito. Alfredo da Milano, buongiorno. Se ne sentono sempre di nuove, Alfredo? Ci racconti? E questo, io sentivo prima una classificazione della sintomatologia, come dire, no? Cioè, chi starnutisce ha il naso che cola e chi invece ha il naso tappato, chiuso, tappato, no? La congestione classica, eccetera. Bene, io ce le ho tutte e due. Bene, così non ci facciamo mancare niente. Esatto, nel senso che poi succede che normalmente la seconda, cioè lo stato di congestione, eccetera, quando proprio, come dire, il muco insomma diventa molto più denso, eccetera, non fare, segue la prima, no? La prima è violentissima, mi porta, va a ondate, come dire, no? Sì. E poi la seconda invece proprio non mi fa dormire. Questo esattamente in questi giorni, io non dormo ormai da una settimana praticamente perché non riesco a respirare. Io ho anche fatto dei test allergologici tempo fa, hanno anche dato qualcosa, perché avevo anche delle situazioni asmatiche non fortissime, ma insomma in alcuni casi venivano fuori anche, sì, oltre alle congiuntiviti eccetera. Qui prendo delle polveri da inalazione, però devo dire che io non riesco ad arginare il fenomeno, che è diventato veramente debilitante. Cioè, durante la primavera io sto male. Senta, cioè, mi dice qual è il momento della giornata? Perché con il professor Passalacqua volevamo parlare anche della cronobiologia della rinite, perché su questi i medici fanno particolare attenzione. Qual è il momento? Lei ha detto di notte non riesco a dormire, e durante, quindi la notte sicuramente è un momento critico per lei, e nel corso della giornata, quale in particolare? Il mattino, il pomeriggio? Ma io direi la tarda mattinata non ha molto a che fare con gli acari, credo, perché non avviene in particolare in casa al mattino. Ecco, io so che c'è questa anche. Ma relazione. Adesso noi rimandiamo tutte le sue indicazioni al professor Passalacqua. Professore, allora, il naso, al nostro ascoltatore, non solo con il naso, ma poi il naso si tappa, tanto che lui fa fatica a dormire. Ha fatto i test. Però alla fine abbiamo capito che la sua qualità di vita, almeno in questo periodo, viene molto disturbata. Che cosa si può fare? Dunque, quello che il radioascoltatore ha riferito è una situazione tutto sommato abbastanza tipica, nel senso che quando la persona è esposta per periodi lunghi ai pollini o a qualsiasi altra sostanza che sia allergenica, si verifica dapprima una reazione che noi chiamiamo immediata, che è quella che si vede benissimo con le crisi di starnuti, con il naso che cola, con il prurito violento. Però dopo che diciamo c'è stata questa reazione immediata, si instaura nel naso una vera e propria infiammazione della mucosa. Sì. L'infiammazione della mucosa ispessisce la mucosa e quindi chiude il naso. Da quel momento in poi il sintomo predominante, il fastidio principale è il naso chiuso, proprio perché il naso è, la mucosa del naso è infiammata e quindi è più spessa del normale e non lascia passare l'aria. Questo è una cosa che succede quando l'esposizione all'allergene dura molto nel tempo, quindi può essere sia la stagione pollinica che dura molto, ma anche le persone che sono allergiche ad allergeni che ci sono sempre. E questo le spiega perché abbiamo parlato prima di rinite persistente e rinite intermittente. Ecco, in questo caso ci troviamo di fronte alla tipica rinite persistente, cioè con sintomi che durano in maniera continuativa. cosa si può fare? Lo diciamo dopo suspense, lo diciamo dopo i mercati e il meteo, 800 24 00 24, ma vi diremo anche cosa non fare. Molti degli allergici si curano da sé, provano e riprovano, trovano rimedio con inalatori vari. Attenzione, lo diciamo sempre, che è vero che ciascuno è medico di se stesso, però non deve essere presa troppo alla lettera questa frase. Ecco che siamo tornati, parliamo di rinite allergica. Professor Passalacqua, allora, in sostanza, che cosa faccio se ho questo naso che cola o che si tappa, prude, mi sento un po' la testa nel pallone? Io capisco che qualche cosa non va per il verso giusto. Dovrei per prima cosa fare arrivare ad una diagnosi, o sbaglio? Sì, certo, questo è assolutamente necessario prima di qualsiasi approccio. Tra l'altro, la diagnostica è abbastanza semplice, direi che i sintomi sono, abbiamo elencati prima, il radioascoltatore ce li ha detti in maniera molto chiara: sono il naso che cola, il naso chiuso, le salve di starnuti. Diciamo soprattutto quando tutti questi sintomi peggiorano durante una determinata stagione o in occasione di esposizione a particolari ambienti, per esempio ambienti dove c'è il gatto, ecco, questo è sì. Una cosa che succede abbastanza spesso, che una persona starnutisce quando va in una casa dove c'è il gatto. Beh, questi sono già tutti indicativi del fatto che potrebbe essere una rinite allergica. A questo punto la diagnostica è semplice, si eseguono dei test cutanei, le famose punturine sul braccio, che noi chiamiamo skin prick test, che ci danno immediatamente la risposta dicendo se la persona è allergica e a che cosa è allergica. A quel punto si può decidere di impostare la terapia più adatta al soggetto. Vorrei leggerle un messaggio di Silvia. Esistono farmaci diversi dagli antistaminici? Chiarite per favore cosa sono e se sono diversi dal cortisone. Parliamo di terapia, professor Passalacqua, poi sì. Andremo al vaccino. Certo, dunque, sicuramente gli antistaminici, mi riferisco a quelli cosiddetta di seconda generazione, cioè le molecole più nuove, sono il caposaldo della terapia. Perché agiscono proprio su quella cosiddetta fase immediata, che è quella esplosiva che abbiamo visto prima. Quindi gli antistaminici in realtà sono un po' irrinunciabili per il trattamento della rinite allergica. Danno sonnolenza, professore? Dunque no, ripeto, le molecole che abbiamo a disposizione adesso, sono tante, sono praticamente tutte equivalenti, non danno sonnolenza. È chiaro che c'è una variabilità individuale, certo. Ma in linea di massima sono assolutamente sicuri, e molti di questi addirittura vengono raccomandati per i piloti di aereo, quindi insomma sì. Abbiamo un profilo di sicurezza molto buono. E dicevo, chiaramente però quando c'è molta infiammazione nel naso, quindi quando il naso chiuso è il problema principale, bisogna ricorrere a qualcosa che sia di antinfiammatorio, e sì. L'antinfiammatorio per eccellenza è ovviamente il cortisone. Cortisone che si dà come spray nasale, ovviamente, non per bocca. Quindi uno spray nasale che non si assorbe praticamente, sono dosaggi molto bassi, li sì. Utilizziamo in assoluta sicurezza anche nei bambini, quindi non c'è nessun tipo di problema di effetti collaterali ed è molto efficace. L'importante è che tutto questo non venga autosomministrato, autoprescritto. Sì, assolutamente, ecco. Questo è un grosso problema per due ordini di fattori. Uno, come tutti possono capire, l'automedicazione comporta dei rischi, perché se i farmaci vengono utilizzati nella maniera non appropriata, non corretta, è chiaro che possono portare dei rischi. Il secondo punto è che il curare da sé una rinite allergica può portare a trascurare altri problemi che magari ci sono e di cui uno non si rende conto. Mi rifaccio all'esempio del radioascoltatore di prima, lui ha detto ho anche un po' d'asma, e questo succede spesso nel rinitico allergico, che ha magari dei sintomi lievi, anche che non riconosce come asma, e poi è anche un asmatico. Certo. Se continua a praticare l'automedicazione, rischia. Questo viene perso. Andiamo a Felice, che ci chiama da Pistoia. Buongiorno Felice, ci racconti? Buongiorno a voi. Senta, io ho un bimbo che fino a maggio compie 2 anni. E ha questo, diciamo, sia un vizio, secondo me è proprio una forma allergica. Si strofina continuamente il naso. però non come ha detto il dottore, dal basso verso l'alto, in maniera orizzontale. Sì, anche le aveva detto il dottor Fiocchi, da destra verso sinistra, da sinistra verso destra, se magari è mancino. Sì, e poi anche a volte si tocca anche l'orecchio. E quindi volevo sapere se può essere un'allergia. Premetto che io sono allergico, sono stato allergico in gioventù ai graminacei. Ho fatto il vaccino per diversi anni e poi mi è venuta un'altra allergia alla paretaria. Allora, qui... io posso chiedere un'altra cosa? Io ho risolto il problema con un'iniezione di cortisone, consigliatami chiaramente da un otorino. Sì. Si chiama cortisone retard. E con questo sto benissimo. Cioè, se penso a tutti gli antistaminici che ho preso, che lui mi dava una sonnolenza. Felice, ci occuperemo anche di lei, ma prima precedenza al suo bambino, dottor Fiocchi. Allora, le dico due cose, Felice. La prima è che per l'interesse del suo bambino lei deve abbandonare quella medicina, perché quella medicina che fa molto bene al naso fa molto male alle ossa e a tutto il resto dell'organismo. Non si possono curare, ammazzare le mosche coi cannoni, ed è quello che lei sta facendo. La seconda cosa è che il suo piccolo bambino, con il naso che si sfrega in questo modo, quasi certamente ha un'allergia. Vediamo spesso bambini anche molto più piccoli di 2 anni, già a un mese o due, sfregare il nasino sulla spalla della mamma quando lo tiene in braccio, e che ad una prova allergica risultano già sensibili. Nel primo anno di vita lo skin prick test, il test cutaneo della gocciolina che citava Gianni Passalacqua poco fa, può essere fatto e restituisce più spesso dei risultati di allergia alimentare che di allergie respiratorie. All'età del suo piccolino il test può già essere allergico ad allergeni respiratori, il più frequente dei quali è l'acaro, ma ci possono anche essere le muffe, e raramente, ma sempre meno raramente, le devo dire, potrebbe già essere un'allergia ai pollini. In questo caso lui si farà questa manovra più nella stagione primaverile che non nelle altre stagioni. La terza cosa è che una volta che ha diagnosticato il suo bambino, esattamente come diceva il professor Passalacqua per gli adulti, potrà essere impostato un piano terapeutico basato su farmaci analoghi, identici farmaci. Bisogna però dire che non tutti i farmaci che sono utili per gli adulti possono essere utilizzati nei bambini, perché molti di questi hanno delle limitazioni di età. Professor Passalacqua, il vaccino adesso sarebbe tardi? O non è mai troppo tardi? E poi anche a chi in particolare? Certo, no. Iniziare il vaccino una volta che la stagione pollinica è già inoltrata e quindi i sintomi sono già presenti da qualche settimana non ha molto senso. Non ha molto senso da un punto di vista proprio pratico. Sarebbe bene, per questo dicevo importante fare la diagnosi, sapere esattamente a cosa uno è allergico, a quale polline, perché questo consente di cominciare la vaccinazione prima che cominci la stagione dei pollini. In questo caso il vaccino funziona molto bene, deve essere ovviamente prescritto da uno specialista, funziona molto bene, riduce i sintomi e soprattutto consente di adoperare meno farmaci. Quindi è un presidio assolutamente fondamentale. A chi? Beh, a quelli a cui è stata fatta una diagnosi assolutamente corretta e definitiva. Questo è il prerequisito fondamentale per l'utilizzo del vaccino, della cosiddetta vaccinazione per le allergie. Dottor Fiocchi, per i bambini valgono le stesse indicazioni o andrebbe più cauto? No, per i bambini valgono le stesse indicazioni, e casomai c'è anche una maggiore indicazione a fare l'immunoterapia specifica, il cosiddetto vaccino nei bambini, perché quanto più inizialmente si prende la malattia, tanto più è probabile di bloccarla nella sua evoluzione. C'è un fenomeno che noi chiamiamo la marcia allergica, per cui i bambini che hanno un'allergia alimentare diventano allergici respiratori, e bambini che hanno una rinite, quello di cui parliamo oggi, rischiano pesantemente di diventare asmatici. Abbiamo delle dimostrazioni che il trattamento con il vaccino riduce questo rischio. Quindi il trattamento della rinite allergica con l'immunoterapia specifica significa migliorare le prospettive di vita di questi bambini su un versante molto importante, quello della respirazione in generale. Ci eravamo lasciati sul vaccino. Prima di capire e di chiedervi che cosa ci riserva la ricerca per il futuro, vorrei parlare anche del vaccino sublinguale, e lo decliniamo come sempre per i grandi e per i bambini. Professor Passalacqua, lei come la pensa? Sì, assolutamente. Fino a 15 anni fa l'unico modo per vaccinare contro le allergie era di fare le iniezioni sottocutanea, molti lo hanno fatto, si faceva solo quello. Il vaccino sublinguale, che è stata, posso dire, un'invenzione italiana, questo lo dico con orgoglio. Diciamocelo, certo, queste cose. Che... è un'invenzione sostanzialmente italiana, comunque gli italiani lo hanno sviluppato nel mondo. È molto più comodo perché chiaramente il paziente non deve andare dal medico a fare un'iniezione, se lo può gestire a casa, è più sicuro. Ricordiamo che il vaccino per via iniettiva sottocutanea, anche se raramente, ha qualche problema di effetti collaterali. Ecco, con la sublinguale questo non succede. Questo mi porta a dire che sì, assolutamente è indicato nell'adulto e nel bambino, ma il bambino è proprio, diciamo, il paziente il più candidato ideale. Adatto, il candidato ideale per questo tipo di vaccino, anche perché fare l'iniezione al bambino di solito comporta qualche problema così di tolleranza e di accettabilità. Quindi la sublinguale ha sicuramente introdotto qualche cosa di nuovo e ha aumentato le possibilità che abbiamo di curare. Allora, io vorrei però dare anche un po' istruzioni pratiche, non possiamo dire per l'uso dell'allergia, ma insomma, nel quotidiano oggi i pazienti allergici hanno, rispetto a ieri, la vita un pochino più semplice, no? Basterebbe consultare, ad esempio, il calendario dei pollini. E in linea con noi abbiamo il dottor Renato Ariano, che è direttore dell'unità operativa di medicina interna dell'ospedale di Bordighera e coordinatore anche del servizio di allergia e coordinatore del sito pollineallergia.net. Buongiorno dottor Ariano e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora dottore, questo è un periodo particolarmente caldo tra virgolette per voi e per chi come voi offre questa sorta di servizio di consultazione. Il calendario piace, viene utilizzato, che cosa vi chiedono e come aiutate gli allergici? Il calendario pollinico ormai è diventato, soprattutto per i pazienti allergici, una buona abitudine. Noi ormai da 8 anni abbiamo questo calendario in linea tutti i giorni e riceviamo notevoli, numerose telefonate e richieste di spiegazioni da parte degli utenti che lo consultano settimanalmente. Un po' come una bussola, vero? Prima di partire. Una bussola, abbiamo una trentina di centri dislocati su tutto il territorio nazionale e chi vuole, andando sul sito pollinieallergia.net, può cliccare sulla propria regione, la regione che gli interessa, per esempio alcuni pazienti che risiedono in Lombardia che nel weekend vengono in Liguria, cliccano sulla Liguria così vedono se i pollini ai quali loro sono sensibilizzati saranno o non saranno più o meno presenti. Ecco, ma se poi sono molto presenti, dottor Fiocchi, che cosa faccio? Non vado? No, beh, in questo caso il dottor Ariano mi darà testimonianza che adulti e bambini dovranno mantenere il loro trattamento anche al di fuori della pianura padana e anche nel momento in cui vanno nelle regioni ed eventualmente incrementarlo. Ci sono molti modi, per esempio incrementare le dosi o dare aggiunte di trattamenti quando i bambini entrano in situazioni di rischio. Per esempio questo funziona per i bambini allergici al gatto quando devono andare dalla nonna che ha il gatto. Allora li Ma devo dare un colpo di telefono al mio pediatra o al mio medico oppure faccio da me? Fa da sé se il suo medico gliel'ha già lasciato scritto, altrimenti le tocca disturbarlo. Dottor Ariano, abbiamo già anticipato col professor Passalacqua che il clima in qualche modo è uno dei fattori che può, le variazioni di questo clima, no? Non ci sono più le mezze stagioni, che può spiegare anche l'aumento dei casi di allergia. Adesso noi assistiamo ad una primavera che mi sembra un po' a singhiozzo. Tutte le volte che, non lo so, io vedo anche colleghe, diciamo questa volta è la volta buona, veniamo senza calze e la volta che torniamo a casa con il raffreddore e i piedi gelati. Questo per dire che insomma temporali, poi c'è il sole, poi c'è di nuovo un periodo di freddo. Agli allergici tutta questa primavera singhiozzo fa bene o fa male? La primavera singhiozzo non fa certo bene perché dopo un primo sintomo, una prima pollinazione in genere pollinogico si stabilizza, invece questo andamento a intervalli, intermittente, è dannoso e quindi sono 2-3 anni che osserviamo queste primavere così intermittenti, così brusche, non partono mai, poi partono all'improvviso ed è proprio la variazione brusca di concentrazione pollinica che fa male al paziente. Quindi è per questo importante che adotti dei metodi di prevenzione ed è importante sapere cosa succede sul suo territorio, perché quello che succede a Milano non è lo stesso che succede a Palermo dal punto di vista della fioritura e per le presenze vegetali e per l'andamento climatico. Quindi è importante avere uno strumento come questo che ci permette di monitorare giorno per giorno la situazione del territorio italiano. Dottor Ariano, che previsioni ci può dare per questo anno? Perché insomma sarà un anno buono così e così o un anno duro per gli allergici? Delle previsioni. È il terzo anno però che verifichiamo, dopo una serie di anni in cui c'era stato un anticipo brusco di tutte le fioriture legato all'aumento del riscaldamento del pianeta per la causa del cosiddetto effetto serra, in questi ultimi tre anni abbiamo delle primavere molto brusche. Anche questo dipende dall'effetto serra, perché l'effetto serra determina anche queste variazioni brusche di clima che abbiamo visto anche negli inverni, e quindi c'è una instabilità. L'instabilità non fa mai bene all'organismo, e in particolare all'allergico questa instabilità può causare delle crisi. È importante quindi adottare delle terapie preventive, come diceva prima il professor Fiolo. Quindi calendario consultato, starnuto addomesticato, possiamo salutarci così, dottor Ariano. Può essere un modo. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei. Professor Passalacqua, diamo qualche anticipazione sulla ricerca. C'è qualcosa di buono, qualcosa che bolle in pentola? Ma guardi, in questi ultimi anni la ricerca sta procedendo in maniera accelerata, direi esponenziale. Il filone di ricerca più promettente è quello dei farmaci biologici, cioè quei farmaci prodotti tramite ingegneria genetica che vanno a interferire con le varie componenti sì. di qualsiasi reazione patologica. Molti farmaci biologici li utilizziamo già per le neoplasie, li utilizziamo per le malattie autoimmuni. Bene, questo si sta sviluppando adesso anche per le allergie, quindi quello che ci aspettiamo nel futuro, nell'immediato futuro, quindi non molto nel tempo, sarà l'introduzione di questi farmaci biologici che dovrebbero fornire una terapia di fondo molto efficace. Un esempio lo abbiamo già per l'asma, che è il farmaco anti-IgE che blocca la reazione allergica, che però si usa soltanto per l'asma. Ecco, quello che ci aspettiamo è qualcosa di simile che possa essere utilizzato sia per l'asma che per la rinite. Professor Passalacqua, io la saluto, la ringrazio per essere stato con noi. Il dottor Fiocchi però rimane con noi, abbiamo una ricerca da leggere. Grazie professor Passalacqua, buona grazie giornata. Grazie a tutti, buongiorno a tutti. Abbiamo la dottoressa Erika Sibillo che ci svelerà il risultato dell'indovinello di oggi. Dottoressa Sibillo? Allora, la risposta esatta è il rumore. Da musicista vi dico anche che potrebbe essere giusta la risposta il suono. Questo mi dà spunto perché nelle prossime puntate vi racconterò che differenza c'è tra suono e rumore. Non è così scontato. Grazie allora alla dottoressa Sibilla. Andiamo al consiglio di lettura e poi a una ricerca che ci invita alla moderazione nel consumo di alcol. Oggi, grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, potete ricevere a casa il libro 100 risposte sulle allergie. Il libro raggiungerà l'ascoltatore che per primo ha mandato un'email a esserebenessere@radio24.it con i suoi recapiti la risposta dell'indovinello di oggi, che abbiamo visto era il rumore. In collaborazione con IBS.it. E abbiamo proprio un minuto, ma voglio spenderlo bene per il consiglio del giorno. Parliamo di alcol e lo facciamo partendo dai risultati di uno studio che ha svelato i legami biologici tra l'abuso di sostanze alcoliche, anche senza giungere all'alcolismo, e rischio di tumori e invecchiamento precoce. In linea con noi la dottoressa Sofia Pavanello, ricercatrice dell'Università di Padova, biologa molecolare. Dottoressa Pavanello, abbiamo un minuto per raccontare i risultati di questa ricerca. Sì, allora diciamo che il nostro studio ha dimostrato che esagerare con il bere, anche senza sviluppare una dipendenza patologica dal bicchiere, sposta in avanti le lancette dell'orologio biologico delle cellule. E questa particolare struttura si chiama telomeri, la cui scoperta ha fruttato il premio Nobel nel 2009 per la medicina degli scienziati americani. I telomeri sono delle sequenze di DNA che si trovano nelle regioni terminali dei cromosomi e sono molto importanti per la stabilità genetica delle cellule. La lunghezza dei telomeri però si accorcia progressivamente mentre invecchiamo e ciò provoca instabilità genetica. Questa instabilità genetica può anticipare nel tempo delle malattie tipiche dell'invecchiamento, come ad esempio l'insorgenza dei tumori. I risultati della nostra ricerca, che è stata appunto condotta a Padova in collaborazione con l'Università di Milano, ha mostrato che la lunghezza dei telomeri risulta drammaticamente dimezzata in persone che abusano nell'alcol, nel consumo di alcol. Quindi senza ancora moderazione, sviluppare un problema proprio di alcolismo. Io invito i miei amici da casa ad andare sul sito sapermangiare.mobi, c'è un test per scoprire se possiamo bere, se sì, quanto e come. Fatelo, dottor Fiocchi, grazie per essere stato con noi. Dottoressa Pavanello, un saluto anche a lei e complimenti, appuntamento a domani, noi ci sentiamo dopo il GR delle 11.